Lucinda Williams. Carichi di passione, quella che ci manda Lucinda Williams, ancora quando non era famosa, quando incideva dischi che pochi ascoltavano, pochi acquistavano. Pensate che ha cominciato a incidere per la Folkways Records, questa signora. Adesso questa cantautrice è conosciuta anche in Italia, al pubblico, quello più esigente, più maturo, quello più adulto, quello che segue non solo country music, ma certamente certo rock, certi cantautori. Questa quindi era Lucinda Williams che abbiamo ascoltato con Passionate Kisses, del quale si deve ricordare una bella versione anche di Mary Chapin Carpenter. La cito perché adesso va in onda Mary Chapin Carpenter, il grande amore della mia vita. Fatemi tornare a guardare lo schermo del mio computer che ho qui alla mia sinistra per finire di leggere quel messaggio che si può inviare a 338-6171-300, da parte di chi ha richiesto Daryl Scott e Tim O'Brien. Allora, in particolare mi piacerebbe riascoltare una ballata che hai fatto ascoltare, una ballata acustica live di Daryl Scott trasmessa in passato. Ecco, non riesco a capire bene, non riesco a sapere da quale album è tratto. Grazie per la pazienza, l'impegno e la passione, ma grazie a te Luisa. Luisa, settimana prossima davvero porterò con me Daryl Scott in versione discografica e ascolterai quella ballata dal vivo che evidentemente ho trasmesso qualche tempo fa. Poi un altro messaggio: tu sei un Alan Freed, un Dick Clark versione italiana, ma tu sei fuori. Lo sai chi vorrei ascoltare? Jack Scott rientra più in un ambito rock and roll, quindi sintonizzati, lo so che lo farai Luca, sintonizzati durante Good Rockin' Tonight giovedì, garantito che Jack Scott arriverà anche per te. Poi un altro messaggio, senti qui c'è un nome e un cognome: Don Reno. Non mi trovi impreparato, non ho qui con me Don Reno, ma sicuramente lo avrò settimana prossima. Don Reno, uno dei più grandi banjoisti di tutti i tempi, non si capisce bene da chi è richiesto, chiunque tu sia, ti voglio fare i complimenti. Adesso Mary Chapin Carpenter. Sentite questa ballata qui, sentite questa canzone quanto è bella, cita anche l'Italia a un certo punto, parla di una semplice shirt, una camicia. Una metafora per ricordare i bei tempi, le emozioni e i ricordi legati a questo capo di abbigliamento che evidentemente ha indossato durante un viaggio in Italia. Mary Chapin Carpenter, il brano è The Shirt. Non volevo parlare sulle sue prime parole, ho sbagliato i tempi, allora cosa faccio? La faccio ricominciare. This shirt is old and faded, all the colors washed away. I've had it now for more damn years than I count anyway. I wear it beneath my jacket with the collar turned up high. So old I should replace it, but I'm not about to try. This shirt's got silver buttons and a place upon the sleeve where I used to set my heart up right there where anyone could see. This shirt is the one I wore to every boring high school dance where the boys ignored the girls and we all pretended to like the band. This shirt was a pillow for my head on a train through Italy. This shirt was a blanket beneath the love we made in Algerie. This shirt was lost for three whole days in a town near Buffalo, till I found the locker key in a downtown Trailways bus depot. This shirt is the one I lent you, and when you gave it back, it had a rip inside the sleeve where you rolled your cigarettes. It was the place I put my heart, now look at where you put a tear. I forgave your thoughtlessness, but not the boy who put it there. This shirt was the place your cat decided to give birth to five. And we stayed up all night watching, and we wept when the last one died. This shirt is just an old faded piece of cotton, shining like memories inside those silver buttons. Grand old relic with a grand old history. I wear it now for Sunday chores, cleaning house and breaking leaves. I wear it beneath my jacket with the collar turned up high. So old I should replace it, but I'm not about to try. Mary Chapin Carpenter, The Shirt, da un vecchio disco intitolato State of the Heart, prodotto come quasi tutti i suoi dischi da quello che era il suo compagno John Jennings. Il disco risale al 1989 per la CBS Records. E ora voglio farvi ascoltare un vecchio lupo che si chiama Joe Sun, andava forte negli anni 70 e va forte ogni volta che lo si riascolta. Questa si intitola Maxine. La eseguivo anche col mio gruppo. Volevo dirvelo e ve l'ho detto. Chiedono anche il vecchio Jerry Garcia. Lo farò. She called me up to say she's back in town. And how she's sorry that she let me down. She said she'd like for me to come back around. It again. So I told her that she must have lost her mind. I'd never make the same mistake a second time. Maxine just laughed and said she'd see me at 9. Maxine, you're doing it again. So what am I doing now? Maxine, You Do It Again. Maxine. Joe Sun, anche lui questa sera a Country Skyline. Sì, lo stesso di Don Rino chiede anche Jerry Garcia. Voi direte, che cosa ha a che fare Don Rino con Jerry Garcia? Beh, volete sapere una cosa? Hanno collaborato. Non so se questo signore, questo ascoltatore che ha mandato questa SMS lo sa, ma Jerry Garcia, quello dei Grateful Dead, grande appassionato di bluegrass, ha avuto modo di collaborare con Don Rino. Ok, lo ascolteremo settimana prossima tutto questo. E a questo punto un po' di musica italiana. Davvero. Quando ormai sono le 23:44 è il momento di ascoltare qualcosa che arriva dalle nostre parti. Davvero così, sì. Allora, tenetevi forte, perché quello che vi farò ascoltare è molto, davvero molto interessante. Si chiamano The Claw. Sono di Ferrara, della zona di Ferrara e Bologna. Mi hanno inviato il loro demo. La band è probabilmente all'ascolto e li saluto tutti quanti, in testa Stefano, che è colui che mi ha contattato e che mi ha scritto questa mail per farmi conoscere la sua band, una band che si ispira al New Country in particolare, in particolare credo il Texas Country, che va forte dalle sue parti, perché c'è una organizzazione, un'associazione che si chiama Lone Star Time, lonestartime.com. andate sul sito di lonestartime.com e trovate delle cose interessanti. Organizzano concerti con una certa frequenza nella zona dell'Emilia Romagna. C'è un buon seguito, si balla molto la line dance. Questi signori, questi cinque ragazzoni, dal 2005 non fanno altro che suonare, lo fanno piuttosto bene, devo dire. Si sente qualche incertezza qua e là, ma uno, è un demo. 2005 vuol dire che i ragazzi hanno cominciato da poco, quindi lasciamogli il tempo di farsi esperienza. Ma se questo che andiamo a ascoltare, ed è una delle cinque canzoni contenute in questo demo, intitolata Beer for My Horses, ecco, se questi sono i presupposti, credo che Stefano e la sua banda ci faranno ascoltare delle belle cose in futuro, particolarmente perché promettono di incidere anche, di produrre cose di loro produzione, cioè nel senso di uscite dalla loro penna, quindi pensano di poter proporre cose originali e non soltanto cover. In questo disco che cosa si ascolta? Beh, innanzitutto una sezione ritmica di tutto rispetto, ma certamente voglio fare complimenti a Stefano Parma, il chitarrista che suona anche il dobro. Punta di diamante della band è quello che dà evidentemente il suono country alla band. Manca forse una steel, manca un violino, ma valla a trovare una steel, valla a trovare un violino come deve essere suonato in Italia. No, non è così facile, bisogna adattarsi. Quindi via con i Claw e ci fanno ascoltare Beer for My Horses. Take all the Roman Texas by the tall old tree, round a below. Put a few more in the ground, some demo or their maker, and you tear the hell down. You can bail yourself down. Just is one thing you don't waste mine. You gotta settle up your boys, you gotta draw all time. When the ghost smoke settles in a victory tune, and we'll all be back at the local saloon. We'll raise up our glasses against the evil forces. Whiskey for my man, beer for my horse. Whiskey for my man, beer for my horse. Che dite, bravi o no questi Claw? Ma sì che sono bravi. E dovete sentire anche Mercury Blues, la loro versione di Mercury Blues, quella che alcuni anni fa ci ha fatto riascoltare in versione country Alan Jackson. Una bella versione anche quella dei Claw, che prima o poi finirà in una delle prossime puntate di Country Skyline, l'appuntamento settimanale con la country music e la roots music da Rock FM, da Milano verso la Liguria, la Toscana, l'Emilia Romagna. Fatevi sentire al 338-6171-300. Ah, dimenticavo, andate ad ascoltare i Claw, apriranno il concerto della Cory Morrow Band il 22 luglio, ma apriranno anche il concerto dei Todd Fritsch il 4 agosto. Entrambi i concerti sono organizzati da Lone Star Time, quindi lonestartime.com, trovate le informazioni per poter raggiungere la località dove si tengono questi concerti e quindi godervi anche i Claw, nuova promettente band dell'Emilia Romagna, che presto riascolteremo sulle frequenze di Rock FM. E giusto per par condicio, abbiamo ascoltato una band del centro-nord, ascoltiamo un musicista del centro-centro. Si chiama Armando Zuppa. Aspetto da camionista, anzi da biker, o anzi da camionista. Bah, insomma, vedete voi. Questo ragazzo qui ha inciso un disco di newgrass, o comunque di bluegrass progressivo, di una qualità da fare invidia a molti americani. L'ha inciso con un po' di americani, nel senso che lui si è trasferito negli Stati Uniti un po' di anni fa, non ha fatto fatica a ambientarsi, anzi non ha fatto fatica a suonare al meglio delle sue possibilità questo album, perché è accompagnato da Matt Flinner al mandolino, da Ross Martin alla chitarra acustica, da Eric Thorin al contrabbasso, la voce di Rebecca Hogan, con l'aggiunta di Andrea Monete dei New Country Kitchen e di Anchise Bolchi, che abbiamo ascoltato settimana scorsa al violino. Ecco, l'album è intitolato, simpatico, Superman, una bella copertina completamente con una grafica fumettistica ben fatta, professionale in ogni aspetto questo disco di Armando Zuppa. Dicevo, sembra un biker o sembra un camionista? Oscar in the Jungle, Armando Zuppa al banjo. Oscar in the Jungle da Superman Armando Zuppa. E a questo punto sulla sigla, ma tranquilli, non è finita la trasmissione, ci ascoltiamo ancora una canzone prima di salutarci. Voglio dirvi che il vincitore, and the winner is, ladies and gentlemen, il vincitore è il mio amico Antlon. E sono felice di questo, sì, sono felice di questo perché questo povero Antlon da Pisa, lui è toscano, ecco, ha partecipato a tutti i quiz che... ha partecipato a tutti i quiz che ho proposto in questa trasmissione in questi anni, non ha mai vinto un accidente. Ecco, finalmente ce l'ha fatta. Allora, Yellow River è stata cantata, data alla Lou Christie negli anni 60, metà anni 60, credo. Yellow River, che stasera abbiamo ascoltato in versione bluegrass, tra l'altro Antlon ringrazia il lavoratore che ha richiesto questa meravigliosa musica bluegrass, che lui, panchettaro, rocker fino al midollo, comincia ad amare in maniera proprio esagerata, e credo che la colpa sia tutta mia. Poco bluegrass, ma quel poco che arriva dalle onde di Rock FM evidentemente fa qualche vittima. Numero di SMS per farmi saluti per la buonanotte: 338-6171-300. Siete stati fantastici. No, ma dico davvero, non lo dico, non è di circostanza, no, è davvero così. Avete scritto in tantissimi, avete fatto delle richieste incredibili. Delle richieste incredibili perché sono ricercatissime, si capisce che la sapete lunga. Spero di avere in qualche maniera qualche responsabilità. E comunque sia, ci risentiamo martedì prossimo per quanto riguarda la country music in diretta da Country Skyline, in replica il venerdì. Domani sera, mercoledì, non mancate l'appuntamento perché ci saranno delle belle sorprese nella trasmissione Garageland. Se amate il country e il bluegrass, così come amate il rock and roll, non mancate l'appuntamento domani sera con Garageland. Io e insieme al Matthews vi faremo ascoltare tanto sano rock and roll, novità, novità, novità, novità durante la trasmissione. Sì, cambieremo un pochettino il programma della trasmissione, quindi ci si divertirà. Chiudo la trasmissione adesso, chiudo Country Skyline facendovi ascoltare un qualche cosa che è country ma è anche bluegrass. Una delle stelle della country music si chiama Dolly Parton, il brano bluegrass è I Don't Believe You Met My Baby, e via con Dolly Parton.